La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, ascoltatore di Radio 24 da Oscar Giannino, benvenuti alla versione di Oscar, 16:37 primi 31 secondi, andiamo subito all'argomento del giorno. Avete sentito, o forse avrete letto stamattina sui giornali, ho sentito ieri ai giornali radio e telegiornali una dichiarazione del capo dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, e Attilio Befera ieri ha ribadito una delle convinzioni molto solide, molto ripetute, per la quale l'evasione fiscale e l'elusione non sono compatibili con la democrazia. Un po' di noi ieri, bloggando e commentando sui social network, io di sicuro, non eravamo in tanti, ma questa è la mia opinione, hanno risposto che di sicuro però a violare la Costituzione nei due articoli che riguardano la materia tributaria, cioè l'articolo 23, quello sulla riserva di legge assoluta per disciplinare i nuovi obblighi fiscali, e l'articolo 53, quello sulla capacità tributaria, beh, a violarli tutti i giorni con i suoi provvedimenti, norme, decreti di attuazione, circolari, è l'ordinamento pubblico, cioè lo Stato. E in questi esempi, per sostanziare non un'accusa demagogica, ma esempi concreti di queste violazioni costituzionali, l'esempio è molto lungo. Oltre alla retroattività con cui lo Stato impone aumenti di aliquote rispetto a ciò che è la legislazione vigente, rispetto all'anno in cui produce il reddito, ed è la maniera abituale con cui lo Stato ci ha accostumato oramai ai suoi aumenti di imposta, ci sono sempre nuove fantasie dello Stato in materia. Una di queste, per esempio, quest'anno con questa legge di stabilità è quella di innalzare gli acconti su alcune imposte, IRES e IRAP, per alcune categorie di contribuenti oltre il 100%, e anche questo è in palese violazione dell'articolo 53 della Costituzione, perché significa aumentare oltre il 100% l'imposta dovuta in acconto su un reddito che è ancora da determinarsi e da guadagnare. Un altro esempio è quello, sempre con questa legge di stabilità, per cui viene disciplinato l'aumento dell'aliquota di 8,5 punti per un solo anno, beato chi ci crede, dell'IRES per una categoria di soggetti, cioè per gli intermediari finanziari, e l'IRES passa per l'anno prossimo dal 27,5 al 36%. La potrei fare molto lunga, ma oggi la puntata ha un ospite, perché iniziano a esserci associazioni di impresa che, di fronte a questo florilegio di fantasie, invitano i loro aderenti a attuare delle forme esplicite, dichiarate, di protesta. In particolare oggi parliamo degli acconti oltre il 100% su IRES e IRAP per società di capitale, quindi per tutte le imprese, al 102,5%, bisognava già pagare ieri l'acconto, e abbiamo con noi un rappresentante, il vicepresidente di AP Industria di Vicenza, William Beozzo, che ringraziamo per essere qui con noi. Perché? Perché AP Industria di Vicenza ha detto ai loro aderenti: no, ragazzi, iniziamo a protestare esplicitamente il 10 di dicembre. L'acconto al 102,5% dell'IRES e IRAP che ci viene richiesto non lo paghiamo. Buon pomeriggio, Beozzo, è così? Buon pomeriggio a lei, Oscar, e a tutti i suoi ospiti. Sì, è così, però vorrei precisare una cosa immediatamente, prima che dopo andiamo ci siano equivoci. Ecco. Equivoci. Allora, noi non vogliamo istigare nessuna disobbedienza alle leggi attuali del nostro governo, ok? Ma però abbiamo il dovere di evidenziare con strumenti illeciti che consentano a ciascuno di far sentire il proprio peso. Noi abbiamo fatto questo, e oltre che AP Industria Vicenza, c'è AP Industria Torino, c'è tutta la rete Confimi, c'è la rete Confapri, imprese che resistono, Neolimeri, Confartigianato Giovani Nazionale, perché questo è giusto che noi mettiamo a conoscenza i nostri imprenditori di potergli dare delle armi illecite per tutelarsi contro uno Stato che ci ha scambiato per dei bancomat. Questo noi stiamo facendo. Ed è una protesta che è lecita, che non va a disturbare nessuno, e che disturba uno solo, che si chiama Ragioneria dello Stato. Perché il nostro ragioniere dello Stato è abituato che ogni mese, senza far fatica, gli viene corrisposta una cifra. All'interno delle nostre aziende, dal 2008 ad oggi, questa cosa non succede più, perché ogni fine mese c'è una sorpresa. Sì. E allora noi dobbiamo abituare lo Stato che non si cambiano le carte che sono in tavola, perché così mettono in difficoltà moltissime piccole aziende. E soprattutto una cosa, noi preferiamo, visto che è già stato un anno difficile, riuscire a pagare gli stipendi di dicembre e soprattutto erogare le tredicesime a tutti i nostri dipendenti, perché questa è la cosa più fondamentale oggi, e dopo tutto il resto sono fantasie. Senta, per spiegare bene a chi magari ascolta ma non ha presente come funzionano le scadenze, quando lei ha detto, spieghiamolo meglio, è una protesta lecita, ecco, la parte lecita, che è poi una cosa determinante e fondamentale della protesta, come l'avete spiegata ai vostri aderenti e come molti dei vostri aderenti si sono impegnati a fare sottoscrivendo il modulo che avete loro mandato. In che cosa consiste? Non si paga a scadenza, ma si paga come l'ordinamento consente più avanti, è così? Esatto, praticamente noi il 2,5% che loro hanno aumentato sul 99,99 che dobbiamo pagare sull'anticipo del fatturato 2014 corrisponde a 30 giorni di ritardo. Noi stiamo solo applicando le norme. E naturalmente vi si potrebbe dire, ho capito, agli aderenti che partecipano a questa protesta, voi, siccome lo Stato a quel punto ti applica un interesse su quei 30 giorni, gli proponete un costo aggiuntivo. Ecco, allora, quel costo che noi andiamo a pagare di costo aggiuntivo equivale al 3,96%. Se lei pensa, Oscar, che noi oggi abbiamo delle aziende in tutta Italia che per pagare le tasse si rivolgono a istituti bancari e fanno dei mini finanziamenti al 7-8% se riescono a averli. Quindi, quando noi andiamo a ritardare un pagamento, soprattutto in condizioni di fine anno, può essere anche una salvezza di bilanci per qualche azienda. Visto e considerato che abbiamo anche una protesta a livello nazionale, che sotto certi aspetti si può condividere e sotto certi altri va condannata assolutamente, io le dico una cosa, noi questo mese, queste ultime due settimane, si decide la vita di moltissime aziende del territorio nazionale, e bloccare certi flussi vuol dire far morire ancora delle aziende, le facciamo morire noi con certe manifestazioni. E di sicuro l'aumento degli acconti oltre il 100%, io condivido, non è una cosa simbolica, questa la parte superiore al 99,9% che andava considerato il massimo a cui può arrivare secondo me il prelievo in acconto per un'imposta sul reddito ancora da realizzare per rimanere nei limiti dell'articolo 53, cioè quello per cui a nessuno lo Stato può chiedere il pagamento di un'imposta che non sia proporzionata alla sua capacità tributaria. Voi capite che andando oltre il 100% di un reddito ancora invece da determinare, per me è palese l'incostituzionalità di questo criterio che lo Stato utilizza solo per chiudere i conti a 31 dicembre nominalmente rispettando i suoi saldi. Allora, adesso noi abbiamo il minuto di informazione stradale e poi torniamo con Beoccia appunto su questo punto. Se è immaginabile anche che presto o tardi associazioni di impresa che già fanno questo tipo di protesta, una protesta esplicita, lecita, ma che dimostra tutta la sofferenza del tessuto della piccola impresa italiana, sia immaginabile che, come c'è stato magari l'avvocato Bozzi che ha fatto una ha incardinato un giudizio per l'incostituzionalità della legge elettorale, si immagini presto o tardi che associazioni di impresa facciano lo stesso, promuovendo giudizi incidentali, perché nessun cittadino può farlo direttamente, alla Corte Costituzionale per l'incostituzionalità di questo tipo di norma di prelievo. Eccoci qua, tornate in diretta, 16:47:58 in questo martedì pomeriggio 12 di dicembre. È martedì o mercoledì, ragazzi? Questo è martedì, questo testimonia. È mercoledì, vedi che stiamo sbagliando tutti quanti. Avevo il dubbio qua, mi avete dato una scheda in cui, scusate, è mercoledì. Detto questo, siamo partiti dalle parole di Befera di ieri sull'elusione e evasione incostituzionale, non compatibile con la democrazia. Ci stiamo interrogando sulle forme di prelievo con cui, a mio giudizio, a giudizio di tanti, lo Stato, aggiorna le sue pretese fiscali all'ultimo secondo prima delle scadenze, complicando ulteriormente la vita a migliaia di imprese che già hanno l'acqua alla gola da anni. E abbiamo Apindustria di Vicenza che ha chiesto ai suoi associati, molti di loro hanno aderito insieme ad altre associazioni di impresa, di protestare nei limiti consentiti dall'attuale ordinamento, dicendo no, noi il pagamento alla scadenza che vuole lo Stato non lo facciamo. Abbiamo un ascoltatore che chiede di intervenire, Paolo da Milano, prego Paolo. Paolo, ciao, sono ciao Oscar, sono Paolo di Mercato Libero, come stai? Abbastanza bene. Come la pensi, sì, su queste cose? La penso come purtroppo da 3 o 4 anni vedo flussi di persone, imprenditori, benestanti e giovani che sono stufi di affrontare questo fisco in una democrazia dittatoriale qual è quella di Sacco di Danni e di Befera. E purtroppo tutti i giorni, con un estremo dolore, vedo persone che se ne vanno via. Imprenditori che stanno facendo una carriera eccezionale all'estero, lavorano, si impegnano e appena vanno all'estero hanno un successo incredibile. E io chiedo a questi imprenditori, che oggi sono lì col 102%, di andarsene. Perché è l'unica soluzione vera per la propria famiglia, per il proprio futuro e per la propria speranza. Perché appena fai 50 chilometri o 50.000 trovi un mondo completamente diverso che ha il rispetto del lavoro, il rispetto della crescita e il rispetto dell'uomo. Questa non è una democrazia, questa è una dittatura. E Paolo naturalmente si riferisce alla Svizzera, a Carinzia, quindi l'Austria, alla Slovenia, a tutti i paesi che attirano migliaia di imprese italiane in questi anni. Uno dei motivi fondamentali, secondo me Paolo ha ragione, è esattamente quella del paragone elementare delle aliquote e delle imposte rispetto a quelle che noi chiediamo che gravino sulle imprese e sul lavoro italiano. Ci abbiamo anche Gianni da Bologna, prego Gianni. Gianni, mi sente? No, evidentemente Gianni non mi sente, caduta la linea. Torniamo da William Beozzo, il vicepresidente di Apindustria Vicenza. Io le ho chiesto prima, ma è immaginabile secondo lei che le associazioni di impresa promuovano anche giudizi sulla costituzionalità di prelievi come quello contro i quali voi state protestando, cioè l'aumento oltre il 100% degli acconti sulle imposte? Guardi Oscar, noi abbiamo il nostro ufficio fiscale che lavora solo esclusivamente per fargli i raggi X a tutte le norme che sta mettendo in atto il nostro Stato. Lei dice sempre Stato ladro, è vero che lo Stato è ladro in questo momento. Se lei si ricorda, il 25-26 di ottobre ci siamo sentiti per la manifestazione Ci state mettendo in strada di Venezia, dove noi abbiamo portato 300 chiavi di imprese al prefetto di Venezia. E avevamo promesso, se non ascoltavano le nostre istanze, di procedere con questi controlli, perché quando noi andiamo a dire non paghiamo l'F24 pubblicamente, sa anche lei che andiamo a rischio, ok? Invece noi facciamo i controlli, facciamo i raggi X a tutto quello che lo Stato sta mettendo fuori. Le do un dato anche, perché abbiamo capito una cosa noi, no? E le faccio un esempio banale, quello della cintura di sicurezza. Quando in Italia era entrato il nuovo codice della strada, nessuno si allacciava la cintura di sicurezza. Lo Stato ha dato disposizione alle forze dell'ordine di cominciare a colpire. Oggi l'italiano la prima cosa che fa in macchina si allaccia la cintura per non prendere la multa. E noi abbiamo fatto lo stesso ragionamento. Dobbiamo insegnare allo Stato che lo colpiamo sul portafoglio. Se io le dico che il 27 di novembre 200.000 aziende hanno proceduto a una giornata di serrata, perché? Perché abbiamo voluto colpirli sui consumi energetici. Se lei pensa che oggi il 52% del PIL in Italia è consumo energetico, di cui il 41% è di controllo pubblico. Quindi allora noi dobbiamo andare a colpire dove praticamente loro sono abituati a prelevare gratuitamente senza fare nessuno sforzo, perché noi abbiamo un socio, e lo sanno tutti, che si chiama Stato, che ogni anno si siede sul tavolo e porta via gli utili e non mette mai gli aumenti di capitale. E questa è una cosa vergognosa, se pensiamo anche che un costo energetico in Italia è il 30% più caro di quello che costa in tutto il resto dell'Europa. E lasciamo stare l'America, perché se andiamo a toccare l'America siamo il 300% in più. Allora, la interrompo un secondo perché nel frattempo c'è Maurizio da Lucca. Prego Maurizio. Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera. Senta, io volevo fare una domanda in merito appunto allo Stato sopprime le aziende, però ma le aziende nei primi anni del 2000, dove avevano tassi abbastanza bassi da prendere in banca, perché non hanno investito in ricerca e sviluppo invece che utilizzarle per proprio conto? Perché secondo me anche un problema che hanno avuto le aziende è proprio in quegli anni non hanno investito nella propria azienda e quindi nel primo periodo di crisi sono trovati in difficoltà. Lei cosa ne pensa? Ecco, Maurizio, guardi, c'è una sterminata letteratura sui limiti del nostro sistema di impresa in quanto tale. È ovvio che è sbagliato generalizzare, abbiamo pochi secondi, cioè che noi abbiamo un sistema dove le classi dimensionali di impresa sono caratterizzate da una percentuale elevatissima di piccola impresa, che è quindi meno patrimonializzata e ha meno risorse da investire in ricerca e sviluppo per salire nella catena del valore aggiunto, è un conto. Altro conto è che però questo sistema resta quello con la percentuale percentuale più elevata delle piccole imprese nel totale delle esportazioni di tutti i paesi OCSE. Questo significa che un innalzamento nella catena del valore aggiunto c'è stato, non adeguato, sono d'accordo con lei, hanno sbagliato molto le banche che non conoscono il merito di credito. Qui non si tratta di assolvere i privati dell'impresa e dire che è solo colpa dello Stato, si tratta però di vedere, di sottolineare che in questi anni di crisi, di eurocrisi eccetera eccetera, il paese che più ha affondato il piede solo sulla pretesa fiscale aggiuntiva, deprimendo ulteriormente la domanda interna, i consumi e i margini per la sopravvivenza delle imprese, beh, questo è l'Italia in termini comparati rispetto alle manovre che l'Italia ha varato sia nei confronti della Spagna, del Portogallo, della Grecia. Quindi io sto parlando di queste cose qua e non è una soluzione nei confronti delle imprese in generale. Beozzo, come, quanti vi hanno seguito secondo voi a occhio e croce? 500.000 sono i dati aggiornati a 5 minuti fa. Ah, però, quindi è stata a tutti gli effetti una scelta di massa. Beozzo ci ha sottolineato che è un po' diversa dalla protesta in corso in questi giorni nelle strade, è vero? Eh sì, è diversa, completamente diversa. Va bene, io la devo ringraziare, è chiaro cosa voleva dire. Continuate su Radio 24, appuntamento come a domani.